l'amica mia. Voglio te la vita intera, quanto amore solo Dio lo sa. Prendo te come mia sposa, verso il cielo si andrà, verso chi ascolterà il richiamo di Dio, quello che ho dentro anch'io. Nell'amore staremo anche quando cadremo, se un amore più grande accoglieremo. Voglio amare del suo amore senza limiti e con te. Insidiare i nostri sogni quotidiana lungo gli anni.